Attenzione, attenzione, canale 23. Attenzione, Gian Maria. Chi è? Buonasera. Allora. Buonasera, ascoltatore. Eccoci qua. Eccoci qua. C'è freschetto, ci va. Il vento c'è. C'è il vento. Un pochettino. Vai, c'è un pochettino di freschetto. Ma a me non me ne so, che altro vorrei farlo io sto. Diciamo che tocca a te, a me non me ne tocca, sto dentro. Dentro la camera, lo sapevo che mi tocca. E allora, cosa ti racconti oggi? Io lo sapevo che ti racconti. Il bel vento. Vedi, una giornata così. Vabbè, il microfono mi sta fatto tra lì, quello di avanti. Sì, non so cosa era basso. Era la radio, era il marchigino a due. Ecco, guarda con il microfono normale, lo puoi mettere anche a massimo, quasi a massimo. Sei affleccato, chiaro che domenici 5-6 più avanti ti porta la radio. Infatti l'ho riportato a 5, l'ho riportato. Infatti, stavo ascoltando, perché è questo che passo. Aspetta, e loro erano fortissimi. Sto a guardare la sacchetta rossa, tu devi aumentare, se no non ci sono nemmeno. Io esci troppo basso, capisco il tuo. Da fastidio da uno all'altro, magari a uno arrivi forte, a uno arrivi basso, è un macello, capisco. Tanto non li fa niente se non aumenti mai chi è. Non dico di aumentare al massimo, ma anche a metà non li fa niente per applicare. No, è cosa nella radio che gli ha aumentato il metti che invece c'era a due, l'ho portato a 5 come era. L'ho riportato a 5 perché deve funzionare così. E adesso funziona benissimo. Ma adesso c'è il preamplificato. Il preamplificato l'ho abbassato. Ma io ti sento bene. Io ti sento benissimo, per cui la voce è chiara, pulita. Faccio il tuo umile. Anzi, provo a aumentare, a mettere più alto, a vedere un po' come. Ma adesso è a 9. Ecco, io ti sento perfetto, così deve essere. La radio è fortissima, bella, pulita, e quindi così non puoi andare. Così ti sento bene subito. Ma io lo metto sempre a sì, lo metto. Esce benissimo lo stesso. Magari a te c'è la riservanza, a te c'è la più alto, capito? E se lo metti, se lo metti a 10 o a 9, ti fa bene tutti, ecco, tutto lì. Non ci c'è niente, capito? Non è che è al massimo, per cui puoi anche aumentare a 9 o 10, capito? Sì, io lo so, ma a me, anche le mie volte non mi piace. Vabbè, ma... non dico che c'è forse, ma è normale, cazzo, la radio è perfetta, capito? Ecco, per esempio, ma chi è qua? Qua siamo, dunque. Ha rotto, ha posto, sono con il microfono normale, proprio. E lo dovessi mettere il microfono proprio attaccato, posto è troppo alto. Sì, no, c'è scritto così nell'applicazione, nella cosa, nella radio, nelle cose, l'ho guardato, deve essere a 5 nel peso. Penso, ma non so quante, quanti errori ci sono anche negli apparecchi. È la stessa cosa, vi dico che c'ha 5 fatti invece c'ha 3 fatti, è la stessa cosa. So. No, questo qua mi dice che se lo metto più forte l'amplificazione la sente distorta. Oh, né cosa me lo sta dicendo. Quindi l'ho messo a 5 e funziona benissimo. Oh, a 7 magari, non so, perché la ricezione non so molto bene, ma la ricezione degli apparecchi non sono tutti uguali. A qualcuno arrivi un po' di sotto, a qualcuno arrivi in perfetta, a qualcuno arrivi in basso, e c'è solo questo particolare, capito? Ormai fanno i sensi per queste cose, capito? Io quello sì, ma... su questa radio mi dicevo che mi stavo facendo l'applicazione di macchine, ma ne usciamo. Ah, ma adesso sì, magari va bene, come la mattina. Si sentivano tanto, ma noi siamo stati, capito? Perché quando si rimbenito dicevo adesso va bene, capito? Devo guardare l'India rossa, no? E sta a guardare tutto questo cantante, so, e che gli andrà al buio, so, lo facciamo comunque, là. No, c'era la radio che era a 2, per quello ci può passare. Adesso ho aumentato la radio e quindi la velocità è normale, più forte. Adesso io ti sento perfetto. La radio è buonissima, bella, chiara. Vabbè, la radio come essere la radio normale, però è pulita, è perfetta la radio. Io ti sento perfetto. Va bene così. Già andare, già giambato, aveva giambato un microfono invece, non era un microfono, era la radio lì. Sa che la radio l'altro, cambia, ragazzi. Questo, ma se io dissero a Cicciare, per cui è il microfono normale, mi senti bene, no? A voi da se ti sento bene, certo. La radio è perfetta, chiara. Sì, sono troppo normale, non attirare. Sto usando il 2009, di nuovo, perché c'è un mese di vita appena. Il 2009. Sì. Adesso capite di capire. Chi è che voleva entrare? Se non avessi, no? Budino per nessuno. Esattamente, sta pensando e se ne è andato. Avanti che vuole entrare. Va bene, senza propagazione solo, sarà quello. Non so se la propagazione, se la qualcuno vuole entrare. Aspetta che faccio una prova, so. A questo qua li metto l'entrevista pro, a vedere un po' come è. Che differenza c'è da questo là, forse? E Betto, e questo è com'è? E questo è buono lo stesso. Meglio di quello là. Meglio di quella là, la radio. È più buona questa. E questo tra praticato, vedo un po'. Di questa è più chiara però la voce. È il microfono, c'era anche se c'è particolare. può dipendere dal microfono, può dipendere anche dall'apparecchio, perché da un lato infatti cambia da un all'altro, qua sento anche il televisore, sento. Poi c'è quella là, lo sentivo poco, ma qua li sente di più. Perché sono a 50 centimetri sono la figlia, a fianco, capito? Ecco perché fa pensare, no, vedi come cambia la radio. Perché tu giorni aumentano, posso mettere anche più basso qui, vediamo un po'. Quella, ecco più basso. No, no, è meglio come poco fa, che ti sento più bello. Allora lascialo lì. Lasciala così, così è meglio. Vedo un po', e so per tre basse, quasi quattro, so tre basse e tanti cose, capito? E basta come potenza, potrei aumentare, ma no, non mi interessa aumentare, capito? Mi devo da a due passi. No, va bene così, la buia, la buia se va bene. No, io ti sento sempre bene, perfetto, però è una meraviglia. È una meraviglia, va benissimo, insomma. E poi siamo vicini, guarda, anche con il troppo normale, arriva una pulizia, salvo che lo cambia qualche difetto, ma se no vanno bene, insomma. Vanno benissimo, circa, se vanno bene. A buia. Faremo un attaccapallaccio, guarda, a due di persona, non puoi immaginare, guarda. Ti bene così, guarda. E cosa mettiamo a fare? Non c'è bisogno. Non siamo a Marchio, siamo a Potenza, dai. Sì, sì, fate così. E così, allora. Oh, sta dicendo, non sai cosa siamo, E sono al contratto, e le clave. Se non si mette a posto lui del coso, ma non ha certa dei dossi. Ma lo sta mangiando, no? E sta facendo questa patologia, capito? Lo fa benissimo. Io l'altra volta ho trovato la moglie, ma mi ha detto che era a casa. Ma mi ha detto che stava migliorando un po'. No, dopo non l'ha più visto. Eccoci qua. Cosa mi stavi dicendo? Solo come l'ha messo più in spazio. Sì, vabbè, la memoria. Tanti a tutti così, un po' di voi che me ne venite che c'è pure, però, se no mi ammette così a dubbiati. No, tra l'altro che di Graziano che non sta bene, però è ricoverato, per cui e non ci ha fatto, non riusciva davvero a parlare, poverino che. E adesso male? Purtroppo se sa quelle patologie, il coso anche il diabete e tutto, e non riesce, e c'ha bisogno di ossigeno pure, è un problema. È un problema grosso. Io stavo aspettando che mi telefonassi lì, ma ci ho fatto sempre io qua, e lui non riusciva più, già un mese e più che non telefonava, dove c'è la figlia che lavora con mia figlia lì a ospedale, e non era lo stesso turno e gliela detto a mia figlia. No. Allora, telefonato, dove ci fate bene a parlare? Non riusciva neanche a parlare e si fumava a lui. Purtroppo. Speriamo che si rimetta più presto. Ci ha detto che si era preparando che è mangiato, ma ti deve andare a travagliare. Ma no, era sul 10 era. Ma sul 10 e rimane fai l'ascolto. E allora mangiare di. Altro bagnare di. Devi farci mangio. E se no dopo rimane secondo più per rimane. E chi vive freddo? Sì, io sto trovando il scaldamento lì, col gabbiotto, non penso che sia tanto freddo. E magari l'inverno, ma ancora siamo in tempo freddo, senti l'inverno di altro freddo, sto usando qualche riscaldamento, è tutto bellissimo. Se è freddo, io sto tenendo il riscaldamento e andate a nascere, non sarà nulla, mi rimane una macchina accesa. Cazzo, tu dai il fuoco. Un freddo freddo, dai, c'è un caso, ma un freddo è a vero. Cazzo, se freddo, è un freddo, ci fa gente in giro. Vabbè, questo è maestrale ancora, quindi non porta c'è col vento. E tira l'usci anche domani ha messo lo stesso attore e come è cambiato il tempo però ha visto il cazzo parecchio che intanto siamo coprendo lui adesso prima che sopra il letto adesso si è coprito perché si va che freschetto a fatti mattina e domandavano se giochisci due o quando freddo non ce n'è. Vabbè, che stavo camminando, andando a prendere il giornale, quindi mi è futurato che ero un po' carico giù d'aria, però da freddo non ce n'era, quindi ho abbassato un pochettino, però già è passato. Ma poi che si è stato lo vento e anche con il sole c'era freschetto. Va bene, là. Non c'è del freddo freddo e del caldo caldo, per cui si va avanti di lì. Oh, ieri ho acceso il computer e sono stato a vedere la gomme. Di nuovo, io avevo con le apparecchie scato di nuovo, però male non l'hanno aumentato. No, già l'ho visto, sì. Già l'ho visto che c'è l'apparecchio di lì. Ma chissà poco mercato c'è adesso poco mercato ma se mi bomba cosa mi sembra ma su ma non hanno 200-300 questo cavalli ma sono bene nel gatto. Ciao Marino, ma il microfono lontano c'è. No, perché male? Oh, è che non ti intendia. Addirittura, evidentemente fa la forse bassa. E hanno visto l'allontanata, adesso va bene, no? Adesso sì, che ti sei. Ma se no tocca alzare il volume. Non c'è bisogno di alzare, va. Ha fatto il distacco di gruppo per la schiena, capito? Sulla figlia. Cazzo, cerchiamo che fanno male anche le chiappe. Allora di alto, ragazzi, sto parlando e arrivo faccio per quello. Come ti faccio io? E bongo dritto, vai far vedere una testa. Infatti, allora, capisci anche io queste cose, infatti di nuovo, e le alzo, mi metto bene la schiena, le alzo il battello, ciao, la porta dall'altro, ragazzi, anche le chiappe. fiato fanno male. Ma i fianchi fanno male anche a me, lo sei giuro, fanno male anche a me questi giorni. Ma è questo tempo qua me che me lo sta facendo. Umidità. Io riesco a fare la campagna, sto facendo un po' di uva, e non ha piovuto, la stava tutta guardata, allora gli ho fatto un bel po' la cassetta grande, per cui cassa. E il movimento che ha fatto il 17 adesso, capito? Sì, e come hai fatto il movimento? È coso, è incinato. È un po' che ha colpito. Certo. Mi sono messo la scala, cazzo, era solo e c'ero tutta sulla rete, cazzo. Una parte all'altra. Io anche fuori, però sulla rete c'era la pareggia, allora gli ho fatto un bel po' là. E c'era quell'acqua tutta guastata, tutta cazzo, cazzo. Con l'acqua tutta guastata che gli ho. L'acqua, lo sai che la luva la guasta, specialmente adesso che costa, cazzo, e l'acqua la guasta, se non l'ho fatta, capito? Mi faccio. Tanto è così. Se non ho ben piovuto, tanto quanto, no? Non mi ha piovuto. Oh, ma dove c'era là, c'era una faccia pure la tua rossa, mi schiena. No, porca, perché rimane come pergolato, rimane sulla resa, sta cazzo, da una parte all'altra. Poi c'è un albero di gesso, e i ratti sono saliti di mezzo all'albero. Adesso è l'ufa che c'è dentro l'albero, dai l'idea. E c'è un lugar che apparisce, e c'è l'ufa in mezzo all'albero, cazzo. Perché l'albero non c'è attaccato all'albero, c'è. Dico la rapicazza. Perché si è allungata parecchio, capito? Si è allungata parecchio, dopo tutta. E si è allungata parecchio. E anche sui radiali alberi, capito? Un albero borghese è tutta ivi è attaccata tra la rete e l'albero, perché l'albero affianca al muro, capito? Della rete. Non ho capito. Purtroppo se non. Se non arrivi a pigliarla, chissà si guarda. No, infatti, io pensavo che qualcuno c'è detto la prendesse, perché ce n'era parecchia parte del piazzale, del cancello, capito? Perché io sono l'ultimo che di quella strada, capito? E sulla rete c'è tutta il pergolato, capito? La parte è fuori. Aspettiamo che qualcuno entrati e la prendete, perché tanto no, non è passato nessuno, non l'ho toccato, allora l'ho fatta io che stavo guastando. E fatto bene, tanto se non è mai nessuno si guasta. E infatti allora. E adesso cominciano anche i bucini perché non sanno mangiare e si attaccano a lui, magari. A lupa e tutti i vini, cazzo, ci sono la picanina, fatta buscata, non puoi immaginare, cazzo, fatta la picanina, cazzo, in Ferentina, cazzo, è puro, ce la mangiano. La picanina è un bel film. La picanina, ma è tutta buscata, cazzo, si racconta, sono buscata, io non l'ho fatta, ma stanno mangiando le cornacchie, ma è vero. Ah, è tutto bello. Un po' gribiate gli acchi addossi. Perché ma che non sia nulla ragazzi, perché lì perché picchi adesso non ci sono più, allora si attaccano a quello che c'è da mangiare, capito? Sì, infatti è così, purtroppo è così. Bisogna far così, bisogna fare, perché dove è? Se no bisogna attaccare i bidoni. Come le bandiere. Tutto sarà visto il peggio, sta cazza, cazza. E poi si attacca a quella bella cotta, quella di ammogli, la capito? Non se la scelgono, sì, ma la so. La Rosane Garetti, a quale attaccarsi? Addirittura c'è il Menograno, a cuore escluso o no? Ci stanno svoltando anche il Menograno, fanno il buco sì, e si mangia, si mangia, pure il Menograno, non so, si può immaginare, fa male famiglia male, c'è il male. Poi, quelle lì, e beh, cazzo, bagnato hai, mezzo chilo, cazzo, mezzo chilo di pasta a mangiare. Ma bello che se ne mangia mezzo chilo. Io ne devo mangiare 80 grammi, pensa un po'. Mi raccomando com'è, beh, anche quello, capisco molto anch'io così, perché il primo che mi piace specialmente la pasta, a me piace molto, cazzo, allora, io gli abbiamo pensato gli occhi, cazzo, con cosci di pollo, con cibo, cazzo, una magnata, a torre perché non piace. Ma no, io ne devo mangiare 80 grammi, non di più. Ehi, è bighetto che è travagliato, casa giù fa per bagno, di Vito Manuele. Va bene, no, no, noi vado a mangiare tutti i giorni, ma la volta alla settimana lo faccia, oppure due volte, cambiando il tipo di pasta, si può anche mangiare, capito? Agarra, agarra di più pasta io, per carità, carre qua, carre là, uia. E allora... Cazzo, ma so quando si può mangiare. E dillo a me. Cazzo, ma perché studia, che cosa fa mangiare? La moglie mi dice, cosa facciamo? Beh, io già ne so qui. Ma scoprire ma cosa abbiglia? Beh, cazzo, ho pensato il fatto serio, Però, che una fame, quello che c'è mangia, o no, Manuel? Lui, cazzo, beh, anche il polso, perché a me piaceva molto il polso, e non sa che non mi sta troppo, tanto io abbiamo cucciato un grande, cazzo, e ho mangiato gli altri, io non ne ho mangiato, poi mangiato, no, anche quelli lo si fa. Mi sono accorto anche quello, è vero, cambiato il sapore, oppure ho cambiato i sapori, i rossi della bocca, boh, però non mi va più, anche più non andavo avanti, cazzo, eppure vado, domanda, non mi va. Quando sono congelati, mica cosa avevi freschi? Ah. La ciappa congelata, la ciappa che fresca in cui c'è il gruppo. No, anch'io li ho presi freschi. A me ogni tanto me ne portano, no? Non sono congelati, no. Infatti, siccome mi stai giocando, non sono d'accordo. Oh, siamo noi che siamo sganati, non abbiamo giocato di niente. E allora, sono quelli di fuori. Pochi si di bocciò d'orra che non vanno più gusto. Oh, sono mangiati si di arriera, sono squisiti, sono buoni, sono. No, quelli di arriera sono da parecchio, non lo mangio. Mangiati lì, ma lui. Ma io se lo faccio, capito, che fa e quando forza se si tornano i se ne fuori già di chi c'è io, se li porta, capito? Ancora di chi è? No, ce n'è più nuova, adesso non te l'hanno più, devi andare a... perché li portano direttamente a... al coso. Ai frigoriferi li portano. E da lì poi li portano alle pescherie. Ecco cosa è. E mi davano della rete che me la regalava, cioè, era abbastanza qua di alghero, ma non ne avrete più, è molto abbondante. Ah, ma sono certo, no, forse l'ho passato in pizzettino. E qui ti chiamano, eventualmente la mano che ce la chiama, sono ripreso. Io ho detto che prima c'era questo qua di Alghero che mi portava. Andavo sempre da lui a prenderli, ma non era che di più. E molti non ne arrivano più, visto dalla riga. No, non si chiama Marco. Si chiama Stefano, si chiama, faccia la pescheria, ciao. E ma la riga dalla riga, ma non ne arrivano più dalla riga. Ma se li sta portando da... sta portando a Torres. Ma ce n'è uno che porta a Torres, che è il giovedì, diciamo che è il giovedì che viene, con un furgone. Ma è tutta roba che prende vecchio Corifano e poi tu facciano a questi, Emanuele, che non sai, che cosa che ha dovuto dire, Corifano, i suoi vecchi. Non sai, ma a me mi sembra questa roba, faccia mangiare le forze mangive e poi non hanno nessun sapore per quello, boh, chissà cosa sono magnetiche, che si invece in mare, boh, poi muore il frigorifero e perdono tutti i sapori, capito? No, la roba ormai non è più buona come una volta. Anche dove si avverte, voi, io anche proprio, tocca a vedere, qui c'erano quei cicli, un vecchio al freddo, ecco era, scambio fatto il campeggio, 20 anni fa o 30 anni fa, e poi andavo con il vecchierecce, che molto d'ora, non andavo a me, chi so, a che dai, si le avviali. Anche cose che peccavano, ma vanno fuori l'ambiente, anche se si pecca che devono andare a prestare i cooperativi. Infatti così, devi dare la cooperativa, lo devi dare. 30 di frigorifero, se muoio il frigorifero, a voi di ributtare alle pescherie. E allora, scatta. Bene, e da voi faccio il fresco. Poi a te risalgevo il vecchio fresco lui. I bazzini vedi, chi se li ha di prima di bazzini vedi, un bacio. Vabbè, gli sicuro ci cancarati. E poi il frigorifero gli stava pure la ghita di vedere. Anche se la temperatura di vista è così scogliere. Facciamo il senso, ma da un rompì e ce ne sardina, però non le ha romano, ce ne sono più grosse. Anche le nostre sono piccole, però ci sono fuori. Mentre questi li abbiamo visto a cosa, un rompì. Tutti sacco, brutto, va via di chifo, non è più a me ne piacciono lì. Non ne piacciono molto, però l'abbiamo preso proprio perché erano tutti sacco, è forte, è forte. Quando è così lo devi lasciare, no. A te ti manca a me così, troppo brutti so. Ehi, è toccato lei con tutti sacco, mi si deve fare di chifo a me, per carità. Vai Emanuele. Poi erano saporiti, chiacchia. Già che è roba da fuori, è buono questo sapore, boh. E via, per carità. Vabbè, dai, io chiudo tutto. Ci sentiamo domani se Dio vuole, buon proseguimento. Ciao, Manuè. State bene. Riprendi, io chiudo. Ci sentiamo, grazie la chiacchierata. Ok, ciao Gianmarie, ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao Manuel, a risentirci. E buonanotte al lavoro. E vabbè, ti dico buonanotte io, guarda, farò sicuro. Ok, ciao.